A me mi piace il blues e tutte io ho già cantato. Che sono state zitte e mo un momento mi sfuga. Sono volgare e so che nella vita suonerò. Chi te ne complesse non ne va. Mi piace il zucchero che scende in tuo capello e con una presa l'anese, ma chi è meglio di me? Tengo cazzi e faccio tutto quello che mi fa, perché il suo blues e non voglio cagnare. Ma poi ci resto male e la pazienza è supportata. La gente che cammina mezza via per sbraitare. Mi vengo presa a te perché sono nata a casa e che sono nere, nere. Ma non te posso lasciare. Mi piace chi dà un bacio senza si fermare. Che tu se posarà perché sa perché da fa. Hai i suoi bracci e chiù, ma non ti fa brugliare. Dalle un bacio senza si fermare. A me mi piace il blues e tutto io ho già cantato. Che mi brucio fronte in una maniera già sfugata. Sono volgare e so che nella vita suonerò blues a strigne e niente sono mo. Un po' ci resto umano, la pazienza supporta. La gente che cammina mezza via per straità. Ti vengo presa a te perché sono nato a casa e che sono nere, nere. Ma non te posso lasciare. Ma non te posso lasciare. E sono morto.